Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. E stamattina non sono stato tagliato, tiè. Ma invece una notizia tragica: in Sicilia, per il giorno dei morti, venivano fatti i cosiddetti buchi di zucchero. E non ci sono più buchi di zucchero. Questa mattina vuoi consegnare un messaggio alla storia? Hai una grande possibilità. Ma nella maniera più assoluta no. Cioè, dove va l'umanità? La risposta era boom. No allo Stato che ci dà i soldi per la TV. No allo Stato che mette i suoi uomini nella TV. Alla fine, a furia di seminare odio, le piantine prima o poi germogliano. Ma uno che dice "ti voglio bruciare" al capogruppo del PD, come altro puoi definirlo se non un pirla? Chi sei venuto accompagnato stamattina a Radio 24, Fulvio? Oggi è il giorno dei morti, quindi ho chiamato i miei genitori che stanno in un cimitero non lontano da qui e stanno lì seduti. Il potere si regge sull'esercizio del potere eccessivo su altri che di potere ne hanno meno, punto. Quello sessuale è uno. Oscar, tu hai mai molestato nessuno? No. Io ho un cane, tra l'altro qui vicino a me, che dorme ancora, a differenza di me. L'hanno sempre dipinta come un'arcigna tenebrosa, durissima. Ma quale arcigna? Sì, perché l'Italia in mattina è trasversale, è libera ed è intelligente. Popolo dei Giasvegli, buongiorno! Un'altra grande mattinata si apre davanti a noi. Ancora ci sono le luci, anzi le luci soffuse, le atmosfere del buio, e noi siamo qua al lavoro insieme a chi esce e a chi vuole sapere cosa succede nella vita. Allora, tante cose sul tappeto, purtroppo il Napoli non ce l'ha fatta, annotazione nelle coppe, e siamo in un conto alla rovescia sempre più stretto che ci avvicina alle elezioni siciliane, con tante implicazioni. A New York si scopre che c'era una terribile rete del terrore e ancora tante altre cose da dire. Qui con me oggi a commentare Giulio Cavalli, attore, blogger, polemista, buongiorno. Buongiorno. E Annalisa Chirico, un'altra giornalista, e già ieri twittava alle sue masse l'appuntamento di oggi, perché sappiamo che è affilata come una spada. Buongiorno. Buongiorno, sì, soprattutto speravo che qualcuno ci ascoltasse. Ma sono milioni, Annalisa, sono milioni, fidati. Che si sveglia a quest'ora è incredibile. Lo so, scherzo. E allora entriamo insieme dentro il fritto misto del giorno. Questo è Bill de Blasio, di nuovo. The last thing we should do is start casting aspersions on whole races of people or whole. E ci spiega che Trump, secondo lui, non deve politicizzare la sfida. L'attentatore era con gli USA, negli USA con la carta verde? Trump dice che ora di finirla col sistema della lotteria, e il sindaco di New York gli risponde che questo è proprio ciò che vogliono i nostri nemici, dalla CNN. Ma torniamo in Italia con Berlusconi che attacca i 5 Stelle. Chi vota per i 5 Stelle è una persona che non ragiona, è una persona che non ha te. Credo che abbiamo messo in campo gli uomini giusti, qualcuno ha sollevato eccezioni su uno o due candidati. C'è un sistema delle preferenze, se non vi sembrano candidabili, non li votate. E Di Maio scrive una videolettera proprio lui, a Silvio. Questo è un messaggio per Silvio Berlusconi. Lei ha detto che una persona con la testa a posto non voterebbe il Movimento 5 Stelle. Poi andiamo sul ridicolo, e qui c'è un problema di testa a posto secondo me, quando dice che noi vogliamo introdurre o potenziare la tassa di successione, vogliamo introdurre una patrimoniale o vogliamo mettere un'imposta sulla casa. L'imposta sulla casa ce l'ha messa lei sotto il governo Monti e il governo Letta. Noi non vogliamo introdurre nessuna patrimoniale, e soprattutto anche per noi la tassa di successione è una tassa illiberale. E sentite che cosa costa il treno del Partito Democratico. Sentite. Ancora non sappiamo quanto costerà fino in fondo viaggiare per 107 province, tra i 300 e i 400 mila euro, ma renderemo conto di tutte le spese in modo trasparente e pubblico. La politica costa, certo. Per esempio, la due giorni di Rimini del 5 Stelle, da quello che ci viene detto, è costata 500 mila euro. 500 mila euro per incoronare Di Maio, almeno noi andiamo in giro ad ascoltare le persone. Belli, questi botta e risposta incrociati che chiudiamo con una chiosa fantastica. Gnocchi sui bambini all'uscita da scuola. Noi del nulla ai problemi diamo soluzioni vere. C'è il problema di andare a prendere i figli a scuola, come ha detto la Fedeli. La soluzione è semplice: non mandate i figli a scuola, così evitate di andarli a prendere. Noi risolviamo il problema alla radice. Tanto la scuola, cosa ti serve la scuola? Vai a scuola e poi diventi come la Fedeli. Allora non è meglio mettersi una baby gang? Giulio Cavalli, hai due figli, ti piace la soluzione del nulla, il movimento creato da Gene Gnocchi, virtuale ma abbastanza interessante? Sì, in realtà ho quattro figli, cioè figli ieri sera, adesso stamattina li riconto. Ecco, e quindi eri veramente una catastrofe per te, sarebbe stato il non accompagnamento, cioè il vincolo dell'accompagnamento a scuola. Beh, avrei dovuto assumermi part time, perché poi sicuramente mi avrebbero fatto un controllo fiscale vedendomi tutto il giorno in giro per scuole diverse. E non ce l'avresti fatto. Annalisa, di questa sfida un po' incrociata virtuale che abbiamo ricomposto, Berlusconi contro Di Maio, Di Maio contro Berlusconi, Renzi contro Di Maio, che ti è parso? Chi vedi più in forma? Divertente. Ma mi sembra che ormai il clima di campagna elettorale, questo siciliano, è soltanto l'anteprima di una campagna elettorale che sarà davvero durissima. Il Berlusconi è sempre così, a volte diciamo sproloquia, nel senso che magari ha attribuito al Movimento 5 Stelle delle misure che in effetti loro non hanno mai proposto, come la tassa sulla l'inasprimento della tassa sulla successione o le tasse sulla prima casa. Ed è vero, anche quando Matteo Renzi dice Berlusconi dice che vuole abolire la tassa sulla prima casa, poi però dobbiamo farlo noi, dice che vuole abolire un'altra tassa e poi tocca farlo noi, quindi è vero che su questo diciamo le contraddizioni ci sono tutte, però il vero tema che Berlusconi ha sollevato rispetto ai 5 Stelle, e questo è il tema secondo me più forte, che l'argomento più forte e più solido che lui ha, è che appunto la competenza dell'imprenditore, dell'uomo delle televisioni, dell'uomo del calcio, del quattro volte premier, di fronte alla invece incompetenza, all'improvvisazione, alla mancanza di curriculum di molti dei candidati 5 Stelle in giro per l'Italia. E su questo diciamo Luigi Di Maio ha delle repliche più deboli obiettivamente, però ecco, io temevo che Di Maio dicesse a Berlusconi vogliamo bruciarti vivo, visto che è il linguaggio al quale ci stiamo un po' abituando ormai, è questo, è l'assessore in pectore che il candidato governatore in Sicilia ha scelto e che ha detto a Ettore Rosato vogliamo bruciarti, devi essere bruciato vivo, e è stato riconfermato. Io questo, Luca, l'ho trovato molto grave, perché comunque i partiti devono anche attuare delle sanzioni anche simboliche per favorire un dibattito pubblico all'altezza. La metà sarebbero fuori, però la metà finirebbero fuori squadra. Allora sentite invece il bimbo che fuggiva da Kevin Spacey dicendo: aiuto, sono appena scappato dal seminterrato di Kevin. Help! I've escaped from Kevin Spacey's basement! Help me! Era nei Griffin, ma è curioso che l'autore del cartone cult, Seth MacFarlane, fece una battuta anche su Harvey Weinstein durante la cerimonia degli Oscar. È veramente un tritacarne in cui oggi si dimette un ministro inglese e rischia di nuovo anche Dustin Hoffman. MacFarlane su Weinstein nel 2013, ecco la battuta. The 2012 nominees for Best Performance by an Actress in a Supporting Role are Sally Field in Lincoln, Anne Hathaway in Les Miserables, Jackie Weaver in Silver Linings Playbook, Helen Hunt in Ora the voi attrici non dovrete più fingere di essere attratte da Harvey Weinstein. e ridevano, non si sapeva quanto si era vicini al vero. Che ne pensi, Annalisa? Vabbè, perché lo sapevano tutti che Weinstein era un predatore seriale, un eternamente allupato, era una cosa che Hollywood si sapeva, la sapeva tutto l'establishment liberal, quindi io penso che sia avviata purtroppo la caccia alle streghe e questo mi preoccupa, perché appunto, come tu dicevi oggi, i giornali, li sfogliavo prima di questa telefonata, danno anche la notizia delle accuse di molestie verso Hoffman, poi quelle verso Kevin Spacey, che mi ho trovato però veramente deboli, perché sostanzialmente un ragazzo di 14 anni che dice che Spacey ci ha provato, ma lui ha detto di no, è andato via, cioè non è che gli abbia usato una coercizione fisica, una qualche forma di violenza, ma ci ha soltanto provato quando aveva Spacey 26 anni. Quindi siamo arrivati, purtroppo poi l'America è anche un paese puritano, quindi come ha detto, dopo mi ricorderò perché sono ancora rintontita dal sonno, ma cosa ha detto? Ha detto che rischiamo che prima ancora che un uomo entri in ascensore dovrà chiamare da solo con una donna dovrà chiamare un avvocato, cioè rischiamo che anche un commento un po' forte, una pacca sul sedere, quelle cose che un uomo educato non fa, però rischiamo che questi comportamenti diventino appunto molestie e proprio sessuali, è proprio la reali. Pacca ha messo nei guai Dustin Hoffman. Giulio, sei attore anche tu, quindi sei ormai una categoria a forte rischio molestie. Sì, ma io assisto inorridito alla normalizzazione del molestatore, cioè il porco che assume questa nuova definizione di allupato mi fa venire i brividi, e penso di essere tutt'altro che bigotto. Stiamo parlando, è vero che le accuse escono tutte oggi, ma è vero che i nomi che si sapevano da anni in realtà solo oggi hanno creato terreno fertile per rendere possibili queste accuse. Non sono assolutamente d'accordo con la Chirico su questo, così come i nostri porci italiani sappiamo esattamente chi sono e chi sono. Chi sono? Sono quelli che ad oggi non hanno ancora reso terreno fertile ai nostri editori per permetterci di fare i loro nomi. Salvini, la partita, secondo il leader della Lega Non Più Nord, è fra centrodestra e 5 Stelle. La sinistra è fuori gioco, mi dicono andiamo a Vittoria, era una piazza rossa. La sinistra e il PD non pervenuti. Quindi la prima buona notizia, ancora prima del voto, è che Renzi, Alfano e Crocetta hanno finito di fare disastri. La partita è a due, è fra il centrodestra e i 5 Stelle. Sarà veramente così? Sentite la profezia perfida di Piero Fassino su Claudio Fava, il candidato della sinistra. Che lo ignoriamo, le cose sono semplici. L'unica cosa che credo sia certa è che Fava non sarà il presidente della regione Sicilia. Non c'è nessuna condizione che faccia pensare che Fava possa diventare presidente. E quindi noi chiediamo un voto utile. Qual è il voto utile per la Sicilia? Il voto a Fava non è un voto utile. Ora, Fassino, che abbiamo anche avuto ospite, può parlare di tutto, ma ricordatevi la famosa profezia che fece su Grillo, che lo insegue ovunque vada. Ah, Grillo, se vuole fare qualcosa, faccia lui il partito, eh? Se Grillo vuol far politica, fondi un partito, metta in piedi un'organizzazione, si presenti all'elezione, vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. Papa Francesco, quando prego a volte mi addormento, quest'uomo è un genio assoluto. Anche io quando vado a pregare alcune volte mi addormento, e Santa Teresina dei Bambini Gesù diceva che anche lei faceva questo e al Signore, a Dio, al Padre piaceva quando uno si addormenta. Annalisa, tu quando preghi, dico, che ti succede? La domanda è quando prego. ma come vedi mi addormento con una certa facilità perché tendo a dormire senza bisogno di... No, però Giulio, la grandezza di un pontefice che può mettere in gioco qualunque cosa, può spiazzare tutti, siamo a livelli altissimi. Beh, certo, è riuscito a santificare il populismo e quindi direi che questo è un capolavoro della comunicazione. Stasera mi trovo con due clericali, oppure sbagliato tempo. Bene, strade, e torniamo insieme fra poco. Facciamo un avvertimento sindacale: è immorale alzarsi a questo. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. vi presenta. Mattino. I già svegli. Ciao Radio 24, sono attaccato io a Radio 24. L'ascolto di notte, di giorno. L'ascolto perché tempo libero che ho, perché ho 80 anni, mi attacco alla Radio 24 perché è la migliore radio che esiste in Italia. Io mi sveglio ogni giorno all'alba e ti ascolto, Terese, per tre motivi: il fritto misto, i già svegli e per sentirti venir tagliato puntualmente alle 6:55. Sono già sveglio perché non vedo l'ora di sentire Radio 24 e ascoltare te, soprattutto perché sei una persona che mi piace molto. Volevo dire qualcosa a proposito delle accuse veramente infamanti nei confronti di Berlusconi. Basta guardarlo in faccia per capire, a parte un maschilismo retro e a parte le astuzie dell'imprenditore italiano, io non riesco a vedere in Berlusconi un mandante di stragi. Bese e Giannino, finisce sempre a Tarallucci e Rino. E allora, Giulio, perché ti svegli quando, come la mattina? No, io sono abbastanza mattiniero per essere un teatrante, ho questa anomalia. Poi piuttosto faccio il riposino da anzianotto, la siesta dopo il pranzo. La truppa fa di questi quattro figli, fa colazione tutta insieme la mattina? Sì, è un'organizzazione terribile, nel senso che se ci pensi in realtà è come gestire un centro d'accoglienza. Con un controllo delle spese però molto più fitto. Sì, corrono i soldi nelle superfamiglie? I figli costano molto ed è un tema che in quest'Italia, tra l'altro così tanto clericale, se ci pensi, sembra sparito un po' dalla politica. Fai subito due esempi proprio della cassa del bilancio familiare moltiplicato per 4. Per le scuole elementari, solo tra libri, cartelle, senza nemmeno entrare nella moda dandy lombarda, penso di aver speso circa sui 300-400 euro bambino. Cos'è la moda dandy lombarda sui figli? Dico, senza affidarsi agli zaini griffati. Ecco. Annalisa, tu com'è il tuo ritmo biologico? Il mio ritmo biologico è che devo dormire fino alle 7:30 del mattino, dopodiché mi sveglio, purtroppo mi sveglio anche se è festa, anche se è estate, anche se è domenica. 7:30 per me è il momento della sveglia, ma se malaguratamente mi sveglio anche solo un po' prima, io ne soffro molto, sono un po' su questo dipendente dalla, come dici te, dal ritmo biologico. E poi tazza di latte e caffè e le prime due ore silenzio assoluto con lettura dei giornali. Io non ho bambini, quindi insomma vivo nelle prime ore della mattina con in grande silenzio e concentrazione per cominciare la giornata. Via SMS hai già ricevuto la prima stoccata di Gianni, che scrive: viva il Movimento 5 Stelle, cara invitata che saresti tu, abbiamo visto dove la vostra competenza ha portato questa Repubblica, punto esclamativo. Che rispondi? Beh, quale competenza? Io faccio la giornalista, quindi al massimo avrà letto qualche articolo che magari non ha gradito. Però ecco, tu prima citavi en passant un tema importante che anche oggi è sui giornali, cioè l'ennesima farsa pseudomafiosa a pochi giorni dal voto siciliano nei confronti di Silvio Berlusconi. Io credo che sia davvero, davvero questa l'ennesima una farsa che poi fa perdere anche fiducia dei cittadini, alimenta comunque la perdita di fiducia nella giustizia, perché come si fa a spiegare che a pochi giorni dal voto viene fuori l'ennesima intercettazione di un'inchiesta già archiviata tre volte, in cui Berlusconi sarebbe addirittura il mandante delle stragi del 92-93, cioè siamo ormai con, per le parole peraltro di un boss mafioso che parla sapendo di essere intercettato, cioè siamo ormai alla barzelletta, abbiamo superato il ridicolo e invece vedo che tra i grillini insomma sono molti ad appassionarsi a questo tipo di ricostruzioni, peraltro prodotte da un PM che partecipa, parlo di Nino Di Matteo, che partecipa ai convegni del Movimento 5 Stelle, che si è detto anche disponibile a un suo impegno politico personale. Cavalli. Quindi ormai siamo davvero oltre. Tu hai un'idea diversa? Ma io in realtà, se proprio devo farmi rovinare lo stomaco, me lo farei rovinare da una condanna che è quella Marcello Dell'Utri, che non ha bisogno di riaperture di inchieste e che racconta un pezzo di storia di questo paese. Tra l'altro, su questo accerchiamento a Nino Di Matteo, sto vivendo io sotto scorta da circa 11 anni, mi lascia perplesso anche questa anaffettività per tutti coloro che indagano. Del resto noi siamo un paese a cui piacciono molto di più coloro che ci fanno divertire. Poi vorrei ricordare che questa inchiesta è un'inchiesta che era già stata archiviata, e archiviata non significa che erano stati prosciolti gli imputati, ma significa che viene congelata in attesa di nuovi elementi. Sulla questione dell'orologeria, noi siamo un paese che vota ogni 6 mesi, quindi o decidiamo di sospendere la democrazia per dare spazio alla magistratura a indagare, oppure ce ne facciamo una ragione. Mi sembra che sia bello dare due idee così diverse, così documentate, così convinte, è la forza di questa radio. Però vi chiedo un commento a un'altra notizia. Insomma, in sostanza fra poco si arriverà a un voto in varie parti d'Italia, il Molise, Ostia, la Sicilia, che sarà come l'ultimo grande termometro prima delle politiche. Siamo veramente in campagna elettorale permanente. Annalisa. Ma sì, ma siamo in campagna elettorale anche quando non siamo in campagna elettorale. Cioè, il problema poi è che tanti problemi non vengono efficacemente affrontati perché i partiti sono impegnati in un confronto senza sosta che spesso è fatto più di slogan che non di ricette concrete. Anche se sul fronte poi della famiglia, della maternità, mi pare che invece della tutela della maternità e anche del sostegno per i figli ci siano, di questo si parla, i partiti fanno delle proposte e servono, poi il grande tema poi è quello delle risorse. Però davvero, siccome il tema secondo me è importante, non facciamo passare l'idea, la retorica che sentivo, che siamo sempre amici dei criminali, invece non siamo amici dei magistrati sotto scorta, vabbè, insomma si commenta da sola, perché se criticare le indagini significa, o criticare anche l'esposizione pubblica e politica di alcuni magistrati è intesa come un dare manforte ai criminali, vabbè, insomma, retorica facile e la lascio a chi la fa. Però invece la questione importante che a pochi giorni dal voto siciliano, in una piazza come quella siciliana e con il Movimento 5 Stelle che lì sarà la seconda o forse anche la prima forza politica, noi ci ritroviamo che esce, c'è una fuga di notizie illegale dalla Procura di Firenze. Bene, alla quale devo dare spazio anche a Giulio. Manda l'intercettazione di un boss che sta in carcere dal 94 e che gli ultimi secondi di essere intercettato. Quindi attenzione a sì, a queste, a non rubare tutto il tempo a Giulio. Giulio Cavalli, chiudi tu. Sulla questione della campagna elettorale permanente sono d'accordo con la Chirico, mi stupisce, però anche un orologio rotto segna l'ora esatta 2 volte al giorno. Sulla questione invece della retorica e soprattutto della notizia di Berlusconi, ripeto, a me fa paura che Berlusconi scenda in Sicilia a fare campagna elettorale con Dell'Utri condannato in tutti i gradi di giudizio per quello che è stato condannato. Bene. Non avevo bisogno di Di Matteo. Ci sentiamo fra poco per la segna stampa. Grazie a Annalisa Chirico, grazie a Cavalli, ciao. Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.